Ciao a tutti, buon pomeriggio e buona mattina per me. Questa volta voglio parlare dei diritti umani. Una ora prima, 2 ore prima, ho retweetato un video in questo video sembra che appaia un drogato, forse o con sicurezza con la cannabis, perché dico questo? Perché è nel link del video appaia due bandiere, credo che Uruguay e Italia. Non lo so con sicurezza, sono congetture, ma ricordiamo che in Uruguay la cannabis in tutto il territorio è libero il consumo. Di qualche modo, questo uomo spinge una persona e per la sua causa stava per perdere la vita, travolto. E parlava dei diritti umani. Lo so che non siamo chi per definire i diritti umani di ogni persona. E quelle persone che sono molto, molto religiose, scaricano tutto, tutto, tutta la decisione a Dio, ma non sono molto, molto religioso. Credo a Dio e alla Madonna di Guadalupe, ma soltanto vado per la strada. Con un comportamento mi pare di bene, soltanto questo. Non sono ortodosso affatto e non credo che il diritto umani appartenga necessariamente a Dio. In tutto caso, in qualche modo, credo che dobbiamo rispettare i diritti umani tutta la gente, senza menoscabo. Tra la gente e le diritti non mi pare che quei criminali che ammassa a gente innocente, che quelli rapitori che se sena una orecchia, una dita, perché non riceve denaro, per la libertà delle persone. Libertà che non le appartiene. Di quelli estorsori, di coloro che aggrediscono con mano armata, di quelli stupratori, di coloro che minacciano la vita dei bambini con l'obiettivo di diventare al bambini come loro alla fine. In generale del crimine organizzato. Secondo me i loro diritti umani non le appartiene a Dio, perché quelli non hanno rispettato i diritti umani dell'altra gente. Io dicevo e dico la politica della verità, rispetto dei diritti umani senza pregiudizio tra persone e diritti, senza meno scavo tra persone e diritti. Questa è la posta. Non sono chi per definire il pensiero e il pensiero di ognuno. Ma io penso in questo modo. Devi fare il bene se vuoi che le altre gente fare il bene a te. Va bene. Grazie a tutti, buona mattina o buon pomeriggio, forse buonasera in algún posto, grazie a tutti.